Quando noi vediamo una ragazza passeggiar, cosa facciamo? Noi la seguiamo e con occhio scaltro poi cerchiamo di indovinar quello che c'è da capo a piè. Ma le gambe, ma le gambe a me piacciono di più. Ma le gambe, ma le gambe sono belle ancor di più. Le manine deliziose ti saprò accarezzare, la tua gamba un po' nervosa ti farà innamorare. Saranno belli gli occhi neri, saranno belli gli occhi blu. Ma le gambe sono belle ancor di più. Quando una maschietta dal musetto seduttor ti guarderà, ti parlerà, il tuo sguardo acuto, prepotente indagator, che cosa fa? L'avvolgerà. Saranno belli gli occhi neri, saranno belli gli occhi blu. Ma le gambe, a me piacciono di più. Saranno belli gli occhi azzurri e nasino un po' all'insù. Ma le gambe, sono belle ancor di più. Due manine deliziose ti sapranno accarezzare, ma due gambe un po' nervose ti faranno innamorare. Saranno belli gli occhi neri, saranno belli gli occhi blu. Ah, ma le gambe, sono belle ancor di più.